Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione le persone di altre specie. È la puntata numero 755 e questa settimana parliamo ancora di orsi e poi di sperimentazione animale, con brutte notizie in arrivo dal fronte giudiziario, e infine di animali selvatici del nostro Mediterraneo. Sia la colonna sonora, sia la ricetta della settimana sono a cura di Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, nonché appassionato DJ. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora mai. Scoppiato in Trentino un nuovo caso legato agli orsi. Un turista francese di 43 anni ha avuto un incontro ravvicinato con una mamma orsa nel comune di Dro, a circa 20 km da Trento. Il contatto è avvenuto nel bosco e l'uomo è rimasto ferito agli arti da quello che sembra essere stato un falso attacco, cioè un'azione dell'orsa per spaventare e allontanare l'uomo, senza però aggredirlo davvero. È stato lo stesso turista a chiamare i soccorsi che lo hanno portato in ospedale, dove è stato giudicato guaribile in una ventina di giorni. Si presume che la responsabilità del fatto sia di un'orsa, perché pochi giorni prima del fatto, nei pressi di Dro, era stata avvistata appunto un'orsa con 3 cuccioli. L'episodio inevitabilmente ha rilanciato le polemiche sulla gestione e sulla presenza stessa degli orsi in Trentino. Polemiche ormai sempre più accese dalla morte il 5 aprile 2023 di Andrea Papi, ucciso da un'orsa mentre correva nei boschi. La prima richiesta di un'immediata condanna a morte dell'orsa di Dro non è venuta stavolta dal presidente leghista della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che comunque il giorno dopo avrebbe emesso l'ordinanza di abbattimento dell'orsa. Fugatti è stato preceduto da 4 parlamentari del Trentino e dell'Alto Adige, appartenenti al centro-sinistra e alla SVP, il partito di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Si tratta di Julia Unterberger, Luigi Spagnolli, Pietro Patton e Meinhard Durnwalder, secondo i quali non si tratta di punire o di vendicare, ma di tutelare quella pubblica incolumità che oggi, in alcune zone del Trentino e dell'Alto Adige, purtroppo non sempre è garantita. Non si tratta di punire o vendicare, dicono i parlamentari, ma intanto l'orsa deve essere soppressa, un passaggio a dir poco ardito anche sul piano della logica del discorso. Il fatto è, secondo i parlamentari, che, testuali parole, si è rotto un equilibrio ed è per questo che da un lato occorre modificare la direttiva Habitat e dall'altro applicare le norme già esistenti, che impongono la cattura e la soppressione degli animali pericolosi. Va allora superato questo pregiudizio e una visione troppo spesso sganciata dalla realtà, così i quattro parlamentari. Il dibattito in verità verte proprio su questo punto, su quale sia la realtà. Secondo il mondo animalista e ambientalista, le maggiori responsabilità di quanto accaduto nei vari episodi di contatto fra persone umane e orsi è da attribuire alla superficialità e alla negligenza delle amministrazioni pubbliche, che hanno mancato in questi anni di informare e formare in modo adeguato la cittadinanza. Gli orsi esistono, hanno i loro habitat e chi frequenta i boschi deve tenerne conto, prendendo le dovute precauzioni, evitando per esempio certe zone se frequentate dalle orse con i cuccioli. Ma tutto ciò è possibile solo se le autorità e la cittadinanza tengono comportamenti responsabili, con la formazione appunto, con una cartellonistica adeguata, con cassonetti dei rifiuti anti-orso, in modo che gli animali non si abituino a frequentare i centri abitati in cerca di cibo. In Trentino le autorità hanno in gran parte mancato nei propri compiti e la recente svolta politica a destra ha impresso il colpo finale. Si è sposata la politica della paura. Gli orsi ormai sono il nuovo spauracchio e il potere punta a mostrare i muscoli con le condanne a morte e la prospettiva, nemmeno più tanto velata, della completa eliminazione fisica del centinaio di orsi presenti nei boschi della zona. A questo proposito è dei giorni scorsi la notizia che due orsi trovati morti nei mesi scorsi, MJ5 e F36, secondo la catalogazione ufficiale, sono stati verosimilmente uccisi con armi da fuoco. Sarebbero state cioè due esecuzioni, ad opera evidentemente di cacciatori, che avrebbero comunque agito in un clima di sostanziale consenso politico e sociale. Una politica ammazza orsi fai da te. E chissà che il nuovo modello di gestione degli orsi non sia quello praticato in Romania, dove nei giorni scorsi si è deciso di abbattere ben 481 orsi. Gli abbattimenti programmati, va detto, sono una pratica corrente in quel paese, in una logica che potremmo definire tecnocratica, di dominio più che di convivenza con gli animali selvatici. E tuttavia l'anno scorso si era deciso di uccidere solo fino a 200 esemplari, meno della metà di quelli programmati quest'anno. Un aumento legato, anche in questo caso, all'urgenza della cronaca e alla politica della paura, all'emotività che si crea. La decisione degli abbattimenti è stata infatti presa dal Parlamento romeno dopo la morte, nei giorni scorsi, di una giovane escursionista, attaccata da un orso in una zona montuosa della Transilvania. Un episodio che ha scosso l'intero paese e sull'emozione di questo fatto il Parlamento ha deliberato. Il presidente Klaus Iohannis si era detto scioccato per la tragica morte della donna, sostenendo che il numero di orsi in Romania sia eccessivo. Una valutazione evidentemente impressionistica, come impressionistico è il provvedimento preso. I rischi di incontrare orsi ed essere aggrediti rimarranno pressoché invariati anche dopo l'abbattimento di 481 animali. Il vero punto è minimizzare la possibilità di fare questi incontri pericolosi, in genere con mamme, con cuccioli, attraverso, di nuovo, la formazione, l'informazione, la cartellonistica. Niente del genere, a quanto pare, è stato previsto. Il premier Marcel Ciolacu, dopo l'episodio, ha anzi convocato una sessione straordinaria del Parlamento, richiamando i deputati dalla pausa estiva. E così l'Assemblea, dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane escursionista, ha approvato la condanna a morte dei 481 orsi con 214 voti a favore, 7 contrari e 23 astenuti. La Romania, va ricordato, è il paese europeo, esclusa la Russia, con la maggiore popolazione di orsi bruni, stimata in circa 8.000. Negli ultimi 20 anni, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente, nel paese 26 persone sono state attaccate e uccise da orsi e altre 274 gravemente ferite. Secondo la sezione romena del WWF, la soluzione però non sta nell'abbattimento degli orsi, ma piuttosto in una differente gestione della questione. Appunto. estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate. Odio l'estate. Parlando degli orsi e di quanto sta maturando in Trentino, è interessante leggere le considerazioni del presidente del Parco Nazionale di Abruzzo, altra zona popolata dagli orsi, ma non soggetta alle tempeste politiche della regione del nord, e anzi abituata a convivere con gli orsi in modi decisamente più distesi e più pacifici. Il direttore del parco, Luciano San Marone, in un'intervista all'agenzia ADN Cronos, esordisce dicendo di voler evitare un paragone diretto fra Abruzzo e Trentino, ma poi la comparazione diventa inevitabile, a partire però da una constatazione, diciamo così, strutturale, e cioè il fatto che la densità di popolazione umana fra le due aree è ben diversa. Il Trentino, dice San Marone, ha un livello di antropizzazione che in Abruzzo è sicuramente minore e quindi lascia ampi e selvaggi habitat agli orsi e ai lupi. In sostanza il Trentino ha una densità abitativa e un numero di turisti, dice ancora San Marone, poco funzionali rispetto alla presenza di questi predatori. Ma c'è un altro elemento evidenziato dal direttore del Parco d'Abruzzo, e cioè, parole sue, che sull'Appennino centrale gli orsi sono sempre stati presenti o sono tornati spontaneamente e non sono stati mai cacciati e fatti estinguere come è accaduto in altre realtà d'Italia. Come dire che le relazioni di convivenza hanno altre e più profonde radici storiche. Il direttore del parco la spiega così. In Abruzzo gli orsi sono parte della cultura dei territori, ci sono sempre stati e lo testimoniano i racconti dei nonni e bisnonni, che magari erano anche allevatori. Qui, aggiunge ancora San Marone, con lupi e orsi abbiamo sempre convissuto. In Trentino invece gli orsi sono tornati nel 1999 con il progetto Life Ursus, tramite il rilascio di individui arrivati dalla Slovenia. Perciò il rapporto con questi animali è diverso. Gli orsi, è vero, dice ancora il direttore del parco dell'Abruzzo, creano conflitti, ma i conflitti vanno affrontati e gestiti con tutti gli accorgimenti possibili e nel rispetto della natura e dei suoi tempi. E considerando che gli orsi generalmente aggrediscono per difesa, solo se messi alle strette o se si sentono in pericolo. Insomma, anche in Trentino dovremmo parlare di convivenza e di gestione del conflitto, inteso questo come una fisiologica forma di relazione e di compromesso, necessaria in tutte le formazioni sociali. In Trentino sta invece prevalendo la logica del dominio e della violenza, l'antica e autoritaria pratica della politica che alimenta e strumentalizza la paura. Ne sono vittime dirette gli orsi, ma a ben vedere siamo di fronte a un progetto di società che riguarda tutti, e sarebbe quindi opportuno non snobbare queste vicende come casi minori e periferici, appannaggio di ambientalisti e animalisti del posto. Sarebbe cioè il tempo di aprire gli occhi, prima che sia troppo tardi. Notizia arriva dal fronte giudiziario. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla multinazionale farmaceutica Aptuit, con sede a Verona, e ha autorizzato in via temporanea, fino al 21 novembre, la ripresa di una delle tre forme di sperimentazione tossicologica sui cani prigionieri negli stabulari della società. Sono cani beagle, circa 1600, che vengono sottoposti a trattamenti utili alla produzione di farmaci. La sperimentazione era stata sospesa dal TAR su ricorso della LAB, Lega Antivivisezione, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato, almeno in parte, la decisione, dando il parziale via libera fino al 21 novembre, la data scelta per una nuova udienza, e richiamando l'azienda al rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge. Valeria Albanese, responsabile per la LAV dell'area ricerca senza animali, ha commentato la notizia dicendo che il risultato ci delude, perché consente a un'azienda indagata per maltrattamento e uccisione non necessitata di animali di riprendere le sperimentazioni. Leggiamo invece nel fatto di ordinare all'azienda e indirettamente al Ministero della Salute di rispettare finalmente quanto previsto dalla normativa vigente, con arricchimenti idonei alla specie, vietando il riutilizzo di cani in innumerevoli esperimenti, una chiara certificazione del non rispetto della pur minima normativa a tutela degli animali. Questa ordinanza, continua Albanese, è una conferma che i controlli svolti fino ad oggi non hanno saputo identificare le irregolarità ampiamente emerse in sede penale, come del resto fu per il caso di Green Hill. La LAV poi annuncia che attraverso i propri legali continuerà a difendere i diritti dei cani ancora rinchiusi nei laboratori dell'azienda veronese, confidando che il Consiglio di Stato prima e il TAR poi, nell'udienza del 16 dicembre, interrompano definitivamente le autorizzazioni impugnate e che gli animali vengano liberati per sempre. Lì fuori città, per festeggiare il ritorno del sole, Lola in persona vendeva popcorn, Lola in persona vendeva popcorn. A guardarle il culo e a pensare come sarà, e le altre donne sussurrano malignità. C'era molta polvere lì fuori città e nessuno passava per caso di là, ma l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente veniva lo stesso, l'estate paziente. Parliamo ancora di animali selvatici, spostando l'attenzione sul Mediterraneo. Cominciamo dalla Calabria. La notizia è che una tartaruga marina della specie Chelonia midas, nota anche come tartaruga franca o tartaruga verde, è stata avvistata di notte su una spiaggia in una località dello Ionio calabrese nel tentativo di nidificare. Il WWF Italia ha commentato l'episodio con grande enfasi. Definire questo fatto del tutto eccezionale è dire poco, si legge in una nota. Si tratta infatti del primo caso in assoluto segnalato in Italia. La comparsa della tartaruga verde in verità è anche un campanello di allarme, per quanto previsto. Sarebbe infatti legato all'aumento della temperatura del mare, dovuto al surriscaldamento che sta modificando il clima nel Mediterraneo, con il conseguente spostamento verso occidente dell'habitat di questo animale. La tartaruga verde è la seconda per grandezza dopo la gigantesca liuto, potendo pesare oltre 230 kg. Il suo carapace può arrivare a misurare 140 centimetri. È presente in tutti i mari tropicali e subtropicali del pianeta e nidifica nel settore orientale del Mediterraneo, cioè fra Grecia, Turchia, Cipro, Siria, Libano, Israele, con una media di 1500 casi all'anno. Questa tartaruga ha la sfortuna di essere cacciata e sfruttata per le sue carni e per le sue uova in diverse parti del mondo e perciò è minacciata da più parti. Altri pericoli arrivano dalle catture accidentali, dall'inquinamento e dal progressivo degrado delle aree di nidificazione, oltre che da una malattia di origine virale, la fibropapillomatosi. Per queste ragioni la tartaruga verde è inserita nelle liste rosse dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ed è cioè una specie in pericolo, protetta quindi da diverse direttive e convenzioni internazionali. Vedremo nei mesi e negli anni prossimi se l'avvistamento in Calabria è stato un episodio isolato o se è invece il preludio a un allargamento dell'habitat di questo animale. Restiamo nel Mediterraneo e parliamo di squali, visto che il 14 luglio scorso è stata celebrata la giornata mondiale dello squalo, animale anch'esso, manco a dirlo, a rischio di estinzione, minacciato soprattutto dalle catture accidentali nelle attività di pesca. Per cercare di salvare gli squali è nato un progetto di tutela, messo a punto nei nostri mari ancora dal WWF, che ha creato 16 hotspot, cioè 16 aree marine messe sotto osservazione per fornire ai decisori politici le conoscenze necessarie per l'attuazione di un'adeguata strategia di conservazione basata sulla gestione degli spazi marini. Ma evidentemente servirebbe anche una diversa regolamentazione e limitazione delle attività di pesca, prospettiva al momento non presa in considerazione dai decisori politici. Notizie allarmanti arrivano anche dalla costa romagnola, dove si sta riducendo, fino quasi a scomparire, l'habitat del fratino, piccolo uccello diventato famoso nelle estati scorse per le polemiche legate agli sciagurati concerti sulle spiagge del cantante Jovanotti, concerti che avevano addirittura la pretesa di avere una caratteristica ecologista. Ebbene, come testimoniano i volontari della rete di associazioni Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese, che si occupano dal 2020 di monitorare spiagge e presidiare nidi, quest'anno nessun pulcino si è involato e un solo nido è stato rinvenuto a fine marzo a Marina di Ravenna. E a quanto pare, dice l'associazione, la situazione è stata disastrosa in tutta la riviera romagnola, con un solo nido, il Lido di Spina, non arrivato alla schiusa, presumibilmente per il troppo disturbo causato dalle persone umane. e poi si è registrato l'abbandono dei siti storici di nidificazione del Ferrarese e del Riminese. Un quadro veramente sconfortante. Evidentemente il Fratino, che nidifica in spiaggia, è pressoché incompatibile con il turismo industriale e la sua vorace fame di spazi. Al momento la sua massima prospettiva sembra quella di sopravvivere negli anfratti risparmiati dalla furia distruttrice che sta aggredendo i nostri litorali. Insomma, c'è molto da fare per gli attivisti impegnati nella loro protezione. Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare. E gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni abbiamo chiesto questa settimana una ricetta dedicata al Mediterraneo. Vi ricordiamo che Gabriele è autore di vari libri di cucina, l'ultimo dei quali è Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo la ricetta che ci ha preparato. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dedicata alla tartaruga e al fratino, una ricetta della tradizione sarda che profuma di Mediterraneo. Sacocoi de birdura. Gli ingredienti per 4 persone sono una cipolla, 4 zucchine, 3 pomodori maturi, 150 g circa di semola rimacinata, 50 g di olio extravergine di oliva, qualche foglia di basilico, sale e pepe. Sbucciate e tagliate la cipolla a fette sottili. Tagliate i pomodori a quadretti e grattugiate le zucchine. Disponete tutte le verdure in una ciotola, aggiungete la farina di semola, l'olio extravergine, il basilico spezzettato, sale e pepe. Stendete l'impasto in una teglia su di un foglio di carta forno che avrete spennellato con olio extravergine. Fate cuocere in forno ventilato a 200 gradi per circa 30 minuti. Questa deliziosa focaccia di verdure si può servire sia calda che fredda. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gianluca Masala e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.